promesse e giuramenti, sospiri, smarrimenti, non chiedo da te. Ma tu mi senti tremare in questa notte sul mare. Vola nell'aria preoccupata la dolce serenata che scende dal cuore come le frasi dell'amore che non conosci tu. Un giorno ti dirò, amore, amore, per te io canterò con il mio cuore, ti parlerò di me, la mia canzone. Così, amore, amore. Canto, ma il canto mio ti dice che il cuor non è felice lontano da te. Vorrei parlarti d'amore, ma non so esprimermi ancora. Forse nell'anima sognante la voce mia tremante parlare potrà, ma la tristezza mia non sa cosa è felicità. Un giorno ti dirò, amore, amore, per te io canterò con il mio cuore, ti parlerà di me la mia canzone che ti dirà così. Amore, amore, un giorno ti dirò, amore, amore, ti parlerà di me.